Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Marco Brandani, a difesa della lentezza del panettone Maina, di Anna Marino. Come vivo le feste? Le vivo purtroppo lentamente, ma nello stesso tempo anche affrettandomi. Come dicevano i latini, festina lente, quindi affrettati lentamente, perché effettivamente per chi come noi fa questo mestiere di professione, il Natale è il nostro lavoro, ha bisogno di essere sempre in movimento, soprattutto oggi. Per chi fa delle festività il proprio mestiere non c'è pausa. Marco Brandani, amministratore delegato e seconda generazione della famiglia imprenditoriale alla guida dell'azienda dolciaria Maina, spiega come il tempo sia l'elemento fondamentale per la buona riuscita delle ricette di famiglia. La nostra azienda ha delle tipologie di produzione molto particolari che in sostanza impongono un certo tipo di lentezza nel fare le cose, perché il prodotto deve essere trattato in una certa maniera, e quindi è diventato naturale declinare questa lentezza anche nel nostro modo di fare esterno all'azienda, nel rapporto anche con il nostro consumatore. Guarda caso, poi, il nostro consumatore e noi italiani, ma credo tutto il mondo, in questi ultimi anni ha bisogno di lentezza, ne sono la dimostrazione anche altri casi, altri eventi culturali che stanno avvenendo nel nostro paese, senza fare tanti misteri. Lo slow food è una proposta di un cibo lento che va contro altri tipi di atteggiamenti. Dicevo, quindi è un bisogno anche sociale del nostro mondo di andare piano, e noi cerchiamo, ecco, di essere coerenti con questo tipo di necessità. Alla concitazione delle feste corrisponde quindi la lentezza e la naturalezza della lavorazione dei prodotti, sempre la stessa da quando esisteva solo un piccolo laboratorio artigianale di pasticceria fino alla grande industria dolciaria di oggi. Un'area di circa 100.000 metri quadri, di cui 35.000 coperti, un giro d'affari di quasi 70 milioni di euro, fino a 300 persone al lavoro nei momenti di picco stagionale, oltre 18 milioni di dolci prodotti ogni anno, tra panettoni, pandoro, colombe e torte, e una presenza in oltre 30 paesi. Marco Brandani spiega come tutto questo sia iniziato nel piccolo, a Torino, nel 1964, da una famiglia di emigranti. La storia della nostra azienda per me è una storia speciale. Poi, riflettendoci, è speciale, ma nello stesso tempo è una storia ordinaria per il nostro paese, perché parte a metà degli anni 50 dalla famiglia di mia mamma e da quella di mio padre. La famiglia di mia mamma emigra dal sud Italia, quindi seguendo quello che è stato il flusso di allora, chiamata verso il nord in cerca di fortuna. Mi ricordo ancora adesso i racconti di mia mamma, giovane, che per la prima volta, dodicenne, arriva alla stazione di Alessandria e vede la nebbia fitta, una nebbia fitta su un futuro che in realtà poi si schiarirà e sarà brillantissimo, perché la famiglia di mia mamma con i suoi fratelli nei metà degli anni 50 arrivano a Torino e ognuno cerca il proprio mestiere. In particolare Bruno, un mio zio, entra in una pasticceria e comincia a collaborare lavando tegami e cercando di carpire i segreti del mestiere del pasticcere. Mio zio Tonino fa il garzone in un negozio di frutta e verdura, mio nonno il muratore, ognuno cerca la propria occupazione. Nel giro di pochissimi anni, forse anche e soprattutto in forza di queste esperienze della pasticceria, Bruno propone di rilevare un piccolissimo laboratorio che sta a Torino, un laboratorio il quale titolare rispondeva al nome di Maina. Marco Brandani corre con la memoria ai primi momenti in cui l'idea di una iniziativa in famiglia si è formata. Nessuno conosceva neanche il panettone. Mio padre è di origine toscana, è nato a Lucca di adozione aretina, mai avrebbe pensato nella sua vita di lavorare nel campo del panettone o di finire anche a Torino, perché avrebbe sposato mia mamma, si sarebbe poi innamorato in futuro di mia mamma. Da parte della famiglia di mia mamma invece nessuna avvisaglia della lavorazione in una pasticceria, di trattare dolci, quindi ecco, tutte queste cose sono capitate come per magia. E il resto, secondo me, se posso sintetizzare la storia della nostra famiglia e soprattutto della nostra azienda, è una storia d'amore. Di fatto è una storia d'amore, una storia d'amore tra mia mamma e mio padre, è una storia d'amore anche dell'armonia che c'è stata tra i fratelli, che ancora oggi vedo. Il salto di qualità imprenditoriale di Maina avviene nel 1969. Marco Brandani spiega come è avvenuta la scelta di specializzarsi solo nella produzione di paste lievitate, puntando quindi su poche referenze ad alta tecnologia di produzione e di qualità superiore. Il piccolo laboratorio serve l'Interland torinese. Nel giro di pochissimo tempo decidono i miei genitori di trasferirsi a Fossano. Nel frattempo Fossano è in provincia di Cuneo, è vicino alle Alpi marittime. Nel frattempo mia mamma sposa mio padre e quindi mio padre entra nell'azienda rilevando un biscottificio a Fossano vicino a un ex convento. E là inizia la vera storia dell'azienda, perché di fatto in quell'occasione si introducono in azienda le prime macchine. Siamo negli anni 70, il momento dell'industrializzazione. Si scelgono i prodotti, fino allora si producevano in piccole quantità un po' di tutto, dalle fette biscottate ai biscotti, al panettone, al pan di Spagna. Evidentemente l'introduzione delle macchine ha richiesto una specializzazione e abbiamo scelto il panettone senza particolari ricerche di mercato, come una volta si poteva ancora fare, è il periodo del boom. All'inizio degli anni 70 ci spostiamo un po' più lontani dal centro di Fossano e finiamo nella campagna fossanese, dove ancora oggi siamo, in un'area molto grossa che chi ha l'opportunità di passare sulla Torino-Savona può vedere molto bene. Il passaggio generazionale ha una ricetta inconsapevole, che però, secondo Marco Brandani, funziona in Maina ancora adesso. Il passaggio generazionale c'è stato, ma se vogliamo anche in maniera incosciente non è stato gestito. Forse siamo stati fortunati, quindi io non saprei dare una ricetta specifica. Forse ecco, quello che ho notato è che i componenti della nuova generazione, ma anche la famiglia diciamo che ha costruito questa realtà, ecco, quello che si può notare è il buon senso. Io ho sempre visto tanto buon senso nelle cose che facciamo. Ecco, questo è l'unico elemento che mi sento di ritenere importante in quello che è avvenuto nella nostra famiglia. Però il tutto, ripeto, è avvenuto in maniera abbastanza naturale, perché poi ognuno di noi cugini, di fatto, che conviviamo nell'azienda, operativamente svolge le proprie funzioni e nel momento strategico, nel momento delle scelte, delle grandi scelte, che possono riguardare qualsiasi funzione aziendale, ci ritroviamo tutti insieme. A differenza delle precedenti generazioni, però, l'ingresso in azienda di Marco Brandani è stato orientato e preparato con una sapiente ricetta. Ho studiato economia aziendale, quindi ho fatto delle materie abbastanza inerenti a quello che è poi il percorso futuro. Ho ottenuto una specializzazione in gestione integrata di impresa con specifico interesse per quanto riguarda la finanza, quindi di fatto sono rientrato in quel mondo, anche se onestamente la mia visione era quella di fare delle esperienze esterne all'azienda. Poi il richiamo dell'azienda è stato così forte. L'ingresso è stato dolce. Una caratteristica è che ognuno di noi ha seguito il proprio percorso professionale, nessuno si è improvvisato, ognuno di noi ha fatto le proprie esperienze anche in aziende molto grosse esterne e poi è venuto a dare il proprio contributo e lo dà tutt'oggi in azienda. Quindi ecco, di fatto l'improvvisazione, come magari si poteva fare 30 anni fa, 40 anni fa, oggi credo che sia un po' meno possibile. C'era il boom economico e poi certamente anche il mondo, la complessità era forse probabilmente un pochino più ridotta e nello stesso tempo effettivamente dobbiamo riconoscere ai nostri genitori una buona dose di talento che qualche volta supplisce anche la mancanza di professionalità. Questo senz'altro va riconosciuto ai nostri genitori. Oggi, oltre al talento, bisogna anche essere molto preparati. Conciliare vita e lavoro assume un aspetto inedito per Marco Brandani e per tutta l'azienda Maina. Si concilia giocando, noi giochiamo tutti i giorni, ci divertiamo, ma addirittura anche i nostri collaboratori sono la nostra famiglia. È ovvio che nello stesso tempo lavoriamo, quindi giochiamo lavorando, lavoriamo giocando. E c'è un curioso mestiere in azienda che spetta ad alcuni membri della famiglia, ma poi arriva a coinvolgere tutti. Ah, gli assaggiatori ci sono in azienda e gli assaggiatori sono la famiglia dei miei cugini che si occupano della produzione. Sono Massimo e Roberto, ingegneri specializzati in automazione industriale, che ogni giorno inventano un prodotto nuovo, ma se non ogni giorno, diciamo ogni settimana, e ogni settimana fanno assaggiare ai propri familiari, tenendomi lontano da questi assaggi, questi nuovi prodotti, e poi in base a queste scelte allora se ne discute poi in azienda, ecco come avviene lo sviluppo dei nuovi prodotti nella nostra realtà aziendale, perché si fidano più dei giudizi innocenti dei propri figli che di quelli razionali di me. Siamo una famiglia di magri, però anche dei mangioni, insomma, i dolci ci piacciono, i panettoni in particolare. Quando si è giovani ci piacciono più i panettoni ricchi di cioccolato con le coperture di tutti i tipi. Poi gli anni passano, verso i 35 anni più o meno vedo che tutta la famiglia è orientata al classico panettone con l'uvetta, con i canditi. La tradizione dolciaria di Maina da sempre gira intorno a una lavorazione particolare del lievito madre di pasta acida che dopo una lunga serie di impasti manuali ha triplicato il suo volume ed è pronto per essere utilizzato. Artigianalità ancora oggi, anche dopo l'arrivo dei macchinari. Il lievito madre è il cuore della nostra azienda. Il lievito madre di pasta acida è una tecnica antica probabilmente quanto l'uomo e che i panettieri una volta utilizzavano. Si presenta come una pasta di una torta ancora da lievitare. Dentro questa pasta, che nella nostra azienda è della dimensione di un tavolo, e sono presenti milioni di microrganismi. Hanno un nome, si chiamano Saccharomyces cerevisiae. E questi microrganismi, per essere di nuovo semplici, se mi si consente il termine, mangiano la farina e bevono l'acqua. E mangiando e bevendo si riproducono e visivamente la pasta ingrossa. Una parte di questa pasta ingrossata va in produzione, l'altra parte viene conservata per il giorno dopo. Questo avviene nella nostra azienda grazie alla madre. Il nome non è un caso, viene chiamata madre anche perché i lievitisti, cioè chi lavora con la madre, la considera un essere vivente, quindi le dà da mangiare, le dà da bere di fatto. La nostra madre è del 1974, è sempre la stessa e ogni giorno da allora, con le nuove tecnologie, con la massiccia robotizzazione che abbiamo inserito all'interno dell'azienda, dell'informatica, produce 100.000 panettoni ogni giorno. Per conservare la caratteristica forma a cupola e per preservarne le caratteristiche organolettiche ed esaltarne gli aromi, i panettoni vengono lasciati raffreddare capovolti per oltre 10 ore. Dopo oltre 2 giorni dall'inizio della preparazione, il panettone può essere confezionato. Anche il pandoro, dopo oltre 30 ore dall'inizio della sua preparazione, è pronto. Il tempo è importante in Maina e il lievito madre ha un suo ruolo, quasi di famiglia. Dobbiamo aspettare 2 giorni. Di fatto la lavorazione che prevede l'utilizzo di lievito madre di pasta acida è più che altro un'attesa, più che un intervento diretto sui prodotti, sulle materie prime. È un'attesa cosciente perché tu devi aspettare cercando di capire che cosa sta succedendo al microrganismo, che è un essere vivente, quindi di fatto reagisce alle giornate in maniera diversa a seconda se sono più umide, meno umide, se fa caldo, se non fa caldo. La madre, fra l'altro, è un organismo che ha bisogno di essere accudito. Nei momenti di non produzione non può essere lasciato solo perché, diciamo così, semplificando, soffre di solitudine, quindi va massaggiato, va alimentato con la farina e poi va riposto di nuovo e ritirato fuori fino a quando non riandrà in riproduzione. Ad ulteriore garanzia della qualità perseguita nei suoi processi produttivi, Maina è oggi partner strategico della prestigiosa Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, nel Cuneese, creata nel 2004 dall'Associazione Internazionale Slow Food. Collaboriamo in diversi modi, non ultimo con dei contributi formativi che diamo per quello che riguarda le nostre esperienze nell'ambito della lievitazione e nello stesso tempo ci interfacciamo con loro per quello che riguarda i centri di ricerca che loro mettono a nostra disposizione e quindi cerchiamo di fare un percorso insieme che riteniamo coerente, se non altro anche a partire dal nome, insomma, Slow Food, cibo lento, e il claim nostro è piano piano, buono buono. La comunicazione, infatti, è, secondo Marco Brandani, un'altra tradizione per Maina. Certamente l'inizio che abbiamo avuto ha previsto, diciamo così, la collaborazione di diversi testimonial. Abbiamo avuto quindi modo di conoscere Funari, di conoscere Mike Bongiorno, Nino Frassica è stato uno dei nostri primi amici che ci hanno aiutato a promuovere il prodotto. Poi abbiamo collaborato con Paolo Endel, toscano come mio padre, simpaticissimo. Abbiamo collaborato anche con Fiorello, personaggio mitico, straordinario, personaggio che è come lo si vede in televisione. E in tempo di crisi ecco perché i dolci sono sempre e comunque gettonati, secondo lo stesso palato di Marco Brandani. Il settore dolciario è riconosciuto un settore anticiclico, nel senso che il consumatore, quando non sa del proprio futuro, la prima cosa che fa, lo faccio anch'io, lo facciamo tutti, cerchiamo nella dispensa di mangiare un biscottino, un cioccolatino in più rispetto all'anno prima. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.